24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:32 minuti in questo istante, cari ascoltatori, ben ritrovati per il 24 mattino fino alle 9 in diretta. Il sondaggio di oggi che potete già votare, state votando su radio24.it, nella home page un po' in basso a destra trovate bianco o nero. Oggi parliamo di libertà di stampa perché, come avete sentito, l'Europarlamento si è pronunciato, ha bocciato una risoluzione sulla libertà di stampa in Italia e in altri paesi, che era stata presentata da alcune forze della sinistra, di PD Italia dei Valori, che chiedeva insomma di deplorare le intimidazioni sui giornali italiani. Insomma, vi chiediamo, ma secondo voi è giusto che se ne occupi il Parlamento europeo di libertà di stampa in Italia? Tra l'altro ci sono state scene epocali con gesti dell'ombrello, tutti in turchese come il giudice Mesiano e le sue calze. Questo all'Europarlamento. Ne parleremo alle 8:30 e ora la lettura dei giornali. Legal Mail, la migliore posta elettronica certificata. È un prodotto InfoCert. Vi presenta in primo piano il terremoto giudiziario che ha sconvolto la Campania e Napoli. Questa è l'apertura pressoché unanime dei giornali. Napoli, scandalo assunzioni, apre così il Corriere della Sera. Corruzione e terremoto a Napoli per Repubblica. Appalti e assunzioni facili, comitato d'affari a Napoli. Per La Stampa, Il Fatto Quotidiano, mafia, camorra e mazzette. E insomma, e via discorrendo, assunzioni e gare truccate a Napoli per Il Messaggero, mala campagna per Il Riformista, mentre il Quotidiano Nazionale mette in prima pagina la moglie di Mastella tra gli indagati, l'esilio di Sandra perché è stata costretta a abbandonare la regione Campania con provvedimento esecutivo. E beh, addirittura il Corriere della Sera dedica le prime 8 pagine a questa vicenda, anzi mi correggo, ben 9. Clientele e punizioni, il sistema Udeur, tolta la scrivania al medico nemico. Ma sono Marco Imarisio e Fiorenza Sarzanini che firmano un po' gli articoli sulle varie ordinanze. Affari di famiglia, oggi come allora, quando l'inchiesta del gennaio 2008 sull'Udeur portò rapidamente alla fine del secondo governo Prodi, scrive Imarisio. I coniugi Mastella ritenuti mandanti e istigatori della vicenda, che più di un'altra rassume un sistema di potere il più possibile capillare. Di cosa si tratterebbe? Beh, delle assunzioni per raccomandazione. Insomma, un classico della politica. Si legge con stralci anche di intercettazioni, di telefonate. Nell'articolo di Fiorenza Sarzanini, l'onorevole chiede di quel contratto. Ecco i 655 raccomandati. C'è anche un'intercettazione pubblicata, ovviamente presa dall'ordinanza, di Clemente Mastella, allora ministro della giustizia, che chiamava il direttore generale dell'ARPAC, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, e chiedeva, ma questo massaccese di Casoria chi è? E il direttore generale lo rassicurava: è uno dei privati che dobbiamo riconfermare, non è nostro, è uno dei DS. Ho avuto indicazioni da Gigino e mi ha detto che venivano da te. E poi c'è l'elenco delle raccomandazioni, cioè in questo file che sarebbe stato ritrovato nel computer del direttore generale dell'ARPAC, ci sono tutte le segnalazioni con i politici che li hanno e li avrebbero, meglio usare il condizionale, segnalati. Ecco chi raccomandava di più, la classifica: Luigi Nocera, 100 raccomandazioni, Tommaso Barbato, ex presidente dei senatori Udeur, 43, Antonio Fantini, ex segretario regionale dell'Udeur, 36, Mastella sarebbe a quota 26, la moglie di Mastella sarebbe a quota 16 raccomandazioni, Antonio Bassolino 2, Ciriaco De Mita 2, Pecoraro Scagno, l'ex ministro dell'ambiente 1. E tra l'altro si legge a pagina 6 sempre del Corriere della Sera, Marco Imarisio ha raggiunto alcune di queste persone accusate di avere fatto varie raccomandazioni. Luigi Nocera, che ne ha fatto 100, numero abnorme, dice. E poi attenzione alla differenza semantica, per carità. Le raccomandazioni contengono un'eccessiva forma di pressione, non sono ordini ma quasi. Io ci tengo molto a distinguere, avrò fatto al limite delle segnalazioni. Sul podio della classifica c'è appunto anche Tommaso Barbato, 43. Non ricordo, comunque io facevo politica, saranno fatti vecchi, dice. Andrea Fantini che dice: io ho 74 anni, sono pensionato, ma sì, per me le può chiamare pure raccomandazioni, ne avrò fatte 5 o 6, oggettivamente un dato fisiologico. Questo lo dice, insomma, dichiarazioni che vengono raccolte nei vari articoli. Dice anche: ma sa che c'è, lo facevano anche gli antichi greci, anche in epoca romana, e chi non ricorda gli anni 60-70, le lettere degli onorevoli su carta intestata della Camera. Così fan tutti, caro mio, dice al giornalista Fantini. A tal proposito, rivedetevi Il medico della mutua con Alberto Sordi, bel film tra l'altro. Insomma, queste le dichiarazioni abbastanza incredibile anche, senza alcun problema, di alcuni delle persone indagate, che su queste raccomandazioni se ne parla sui vari giornali, anche Marcello Sorgi in prima pagina della Stampa, il solito copione, si mette insieme per la verità non solo Napoli, ma da Milano a Napoli, sì di nuovo Napoli, ma senza dimenticare Bari, l'Abruzzo, la Calabria, la grande idra continua a divorare se stessa, l'ondata di scandali nati dall'intreccio tra amministrazione e imprenditorie locali non accenna a fermarsi, il sistema pare essersi ormai diffuso dappertutto, al nord, al centro, al sud, con caratteristiche simili e funzionamento purtroppo collaudato. Siamo in pratica, scrive Marcello Sorge, a una napoletanizzazione dell'Italia. Ovunque i filoni del malaffare sono la sanità e la gestione ecologica, si fa per dire, dei rifiuti. Ma è soprattutto nel primo, che muove localmente masse di denaro superiori a quelle amministrate direttamente dal governo nazionale, che la malversazione si fa industria. Ovviamente trovate interviste a Clemente Mastella un po' dappertutto. Al Corriere della Sera dice: ho fatto solo segnalazioni a una vendetta. A Libero dice: non so se è un modo per colpire Berlusconi. Al Giornale dice: stavo risorgendo, mi hanno voluto fare questa congiura. A Repubblica dice: non ho paura, finirà in un nulla di fatto. Oggi diremo se mia moglie si dimette da presidente del Consiglio regionale. Mi sembra tutto impossibile, ho saputo tutto alle 6 del mattino, ero a Strasburgo, ora europarlamentare, c'erano i carabinieri in casa, ma che ci facevano, che cercavano dalle 6 alle 9 del mattino, capite che shock per mia figlia, ho dovuto ricordare ai carabinieri che sono un parlamentare, esistono certi limiti e quella era una violazione, mi hanno risposto che stavano lì per attendere ordini, ma che ordini per 3 ore. Trovate tra l'altro interessante un articolo di fondo dal titolo L'emergenza meridionale di Angelo Panebianco in prima pagina sul Corriere della Sera proprio su questo tema. L'inchiesta che coinvolge l'ex ministro della giustizia Mastella, alcuni suoi familiari, esponenti dell'Udeur, è l'ultimo tassello che si aggiunge alle affollatissime cronache politico e giudiziarie campane. Scrive Panebianco. Ha scioccato tutti il caso di Castellammare, il camorrista con tessera del PD che ha ammazzato un consigliere comunale del suo stesso partito. Poi la sconsolata intervista, di fatto una dichiarazione di impotenza di Enrico Morando, commissario straordinario del partito. E insomma, scrive Panebianco, premesso che l'unico modo per salvaguardare un minimo di civiltà è tenersi abbarbicati alla presunzione di non colpevolezza per qualunque indagato, resta che i discorsi che si sentono fare sanno di vecchio. I partiti, organizzati o no, pesanti o leggeri, sono strutture che si adattano all'ambiente. L'ambiente è il paradiso? I partiti saranno composti da angeli. L'ambiente è l'inferno? Prevarranno i diavoli. L'ambiente chiede sostegno al mercato? È ciò che i partiti daranno. L'ambiente chiede spesa pubblica e clientelismo? I partiti soddisferanno la richiesta. Ed ecco allora qui il cuore del commento di Panebianco, che scrive: non è dai partiti ma dalla società che dovrebbe partire la bonifica. Il problema è che non c'è più da decenni un progetto plausibile per lo sviluppo del Mezzogiorno, a meno che non si dica che il progetto per il Mezzogiorno sia il federalismo fiscale o la Banca del Sud o una Lega Sud. E tra l'altro, tra le varie inchieste trovate, certo quella di Napoli ora ha preso tutte le prime pagine dei giornali, ma ce n'è un'altra a Milano che è esplosa nei giorni scorsi, oggi La Stampa vi ritorna, ma non solo La Stampa, l'ultima bufera sull'universo Formigoni. Si riaccende la battaglia contro il governatore, ci sono stati vari arresti per il progetto Santa Giulia, un progetto di riqualificazione di un quartiere semi periferico di Milano, arrestato un imprenditore, Giuseppe Grossi, Rosanna Gariboldi, che è moglie di Giancarlo Abelli, che è un parlamentare del PDL, ma soprattutto un uomo forte, insomma, un uomo chiave della sanità in Lombardia. Ed ecco allora che Michele Brambilla sulla Stampa scrive proprio l'ultima bufera sull'universo Formigoni. Perché? Perché a Milano, scrive Brambilla, un'inchiesta giudiziaria sta per sollevare un polverone politico, l'ennesimo. Il motivo è presto detto: l'inchiesta ha portato in carcere anche alcuni personaggi vicini a Comunione e Liberazione. A Milano, o meglio in Lombardia, Comunione e Liberazione in politica vuol dire Roberto Formigoni e il suo governo della regione. E c'è tutta questa analisi interessante, se vorrete leggerla, su appunto questa vicenda lombarda. Tralasciando la questione inchieste e venendo alla politica più in senso stretto, troverete su tutti i giornali la vicenda che stiamo seguendo da alcuni giorni, perché ci sono vari retroscena, sul rapporti tra il ministro dell'economia Tremonti e un po' tutta la maggioranza di governo. Cresce la fronda anti-Tremonti, così sulla Stampa, ma un po' ovunque. Guardate, prendo il Sole 24 Ore, nell'articolo che Barbara Fiammeri e Dino Pesole scrivono a pagina 7, in cui si parla in realtà di l'assalto alla manovra finanziaria, scatta in Parlamento l'assalto alla manovra, non è un vero assalto alla diligenza in stile anni 80, scrivono Fiammeri e Pesole, ma insomma ci sono già 800 emendamenti per modificare la finanziaria voluta da Tremonti. E poi si parla di questo giallo, il giallo di un documento che è circolato per alcune ore ieri, in cui c'erano pressanti richieste per alleggerire la pressione fiscale e rilanciare le infrastrutture. A redigerlo, scrivono Fiammeri e Pesole, sarebbero stati alcuni big del partito di Forza Italia. I nomi che circolavano ieri erano Denis Verdini, Fabrizio Cicchitto, i ministri Brunetta, Scajola, Fitto e Prestigiacomo. Ovviamente sono arrivate immediate le smentite, però il giallo è rimasto, tanto che il Riformista lo pubblica, i 10 comandamenti dei congiurati anti Giulio. Sarebbero 10 punti, insomma, che sono un po' in contrasto con la linea economica di Tremonti. Addirittura per il giornale spunta un papello anti-Tremonti, giallo nel PDL, circola tra i parlamentari un documento che contesta la politica di via 20 settembre, giallo su un decalogo anti-Tremonti anche su Repubblica. Ed è sostanzialmente qui che voglio leggere l'editoriale che in prima pagina mette il giornale, che per la verità apre su un altro tema e tra poco lo vedremo, firma Nicola Porro: caro Berlusconi, è ora di abbassare le tasse. Il Cavaliere ci sta pensando e ripensando, scrive Nicola Porro. L'idea di fondo è quella delle origini: ridurre a 2 le aliquote fiscali sui nostri redditi, tassare gli italiani al 23 e al 33%, sforbiciare insomma la vecchia IRPEF, o come diavolo si chiamano oggi le imposte sui redditi. Sarebbe un taglio forte, fortissimo, soprattutto un segnale ai contribuenti. E però poi, scrive Porro, ecco perché la collaborazione con Tremonti è indispensabile. Una rivoluzione fiscale comporta un certo grado di disordine, è necessario tenere a bada le conseguenze. Berlusconi, scrive Porro, individui in Tremonti l'uomo in grado di tagliare la spesa pubblica, il ministro in grado di contenere l'inevitabile deficit che comporterà la manovra, e si adoperi per una gigantesca operazione di pulizia. Singolarmente è anche l'editoriale di Libero di Maurizio Belpietro: caro Tremonti, taglia le tasse. Questo l'appello anche di Libero in prima pagina. In primo piano. Tregua mutui da 8 miliardi, questa è l'apertura del Sole 24 Ore di oggi. Oltre 100.000 le famiglie italiane interessate alla moratoria. Si tratta della moratoria proposta di moratoria di 12 mesi sulle rate del mutuo per le famiglie in difficoltà con i pagamenti, proposta dall'ABI. Mutui sospesi anche per le famiglie, si legge all'interno a pagina 3. Tra l'altro ci sono una serie di interessanti domande e risposte, insomma, chi sono i soggetti interessati a questo piano, qual è la durata prevista, abbiamo detto 12 mesi, la stima sull'impatto dell'iniziativa dovrebbe riferirsi a circa 110.000 famiglie, entrerà in vigore nel mese di gennaio 2010, dunque tra un paio di mesi. Rimanendo sul Sole 24 Ore, il tema che sapete un po' aleggia sui giornali ormai da vari giorni, quello del posto fisso, dopo le parole del ministro Tremonti, Segnalo un'intervista a Dario Franceschini, segretario del PD che corre per le primarie di domenica del partito. Il posto fisso no, serve dinamismo, dice Franceschini. In un'intervista a Lina Palmerini, il problema italiano, dice, è proprio l'immobilismo, una società che non riconosce il merito. E quello che serve è il contrario, il dinamismo dei talenti. Non sono però affatto sorpreso dalle parole di Tremonti e dal primo giorno che gestiscono la crisi su un doppio binario irresponsabile, dice Franceschini. Alla retorica di Tremonti io oppongo i fatti. I fatti dicono che la flessibilità fa parte delle società moderne, piuttosto il governo non fa nulla per arginare la precarietà. In questa intervista di Franceschini, voglio andare all'Europarlamento. Se oggi troverete in prime pagine dei giornali gente che urla, gente che espone cartelli, gente che fa il gesto dell'ombrello, diverse persone che si mettono delle sciarpe o calze turchesi, tutto all'Europarlamento, state tranquilli, non siamo impazziti, siamo noi italiani. Ieri a Strasburgo si parlava di informazione, di libertà di stampa, c'era una mozione, soprattutto una, due sono state bocciate, ma una era quella che diceva che non c'è libertà di stampa in Italia perché c'è Berlusconi e quant'altro, e è stata bocciata. E quindi c'è l'esultanza del leghista Speroni, per esempio, che fa un bel to con un gesto dell'ombrello immortalato. Ci sono appunto, invece, i Verdi avevano tutte le sciarpe turchesi per solidarietà al giudice Mesiano. E addirittura in prima pagina dell'Unità, l'apertura, ci sono tutte queste belle facce con sciarpe turchesi. Eurostravaganze, questo è il titolo. Sciarpe turchesi, la libertà di stampa in Italia spacca l'Unione Europea. Ma a Strasburgo Mesiano diventa un simbolo. Ne parliamo, il nostro sondaggio. Già ora state votando in molti, siete divisi al 50%. È giusto secondo voi che l'Europarlamento si occupi della libertà di stampa in Italia? Votate su radio24.it. Nella home page trovate un po' in basso a destra bianco o nero. Ve lo ricordo, ne parleremo poi alle 8.30. Voglio, perché l'ho anticipata, andare al giornale. Santoro si fa la villa col condono. Questo è il titolo di apertura. Sanatoria lampo per il teletribuno. Si tratta di una villa da 1 milione di euro ad Amalfi, secondo il giornale. Il problema qual è? Che sarebbe stata acquistata da Santoro con un abuso, cioè nel senso con un abuso, c'era un problema di un abuso, che però è stato regolarizzato e condonato, secondo la ricostruzione del giornale, dal Consiglio Comunale di Amalfi, dopo che per 23 anni invece veniva negata questa regolarizzazione. È stato regolarizzato appena Michele Santoro ha comprato la villa. Questo scrive il giornale. Ma Michele si fa la villa ad Amalfi, il condono arriva in un lampo. Il venditore della villa sarebbe un consigliere comunale dello stesso comune che ha fatto il condono, che però contattato dal giornale, questo consigliere comunale dice no, è mio cugino, misteri, dice il giornale. Chissà se Santoro replicherà su questo. Trovate anche tante segnalazioni su quello che abbiamo sentito nel GR24, il delirio in rete, uccidiamo Silvio Berlusconi e parte l'inchiesta, c'è un gruppo su Facebook appunto uccidiamo Berlusconi, Repubblica ricostruisce anche chi l'ha fondato, questo Raul, il compagno Raul che dice era una provocazione. Prendo la direzione del gruppo, dichiaro questo gruppo di affermazioni bizzarre, personalmente non voglio uccidere nessuno, non voglio incitare alla violenza, rimuoverò i messaggi violenti, sta di fatto che messaggi violenti ce ne sono, e dice anche sono orientato verso le Brigate Rosse, Partito Comunista Combattente, evviva. Chiudo segnalando, a proposito di deliri, quello che trovate in prima pagina su Repubblica. Il professore alla sapienza. L'olocausto non esiste. L'olocausto è una leggenda. Professore negazionista, shock alla sapienza. Si tratta di Antonio Caracciolo, che è un insegnante, un ricercatore di filosofia del diritto all'Università La Sapienza, animatore di alcuni blog, secondo Repubblica, in cui si può leggere questo. Paginate sulla Shoah. A proposito di Shoah, ammetto che vi sia una controversia storica sul numero dei morti ad Auschwitz. Che siano 6 milioni, nessuno sembra più voglia seriamente sostenerlo. che poi all'indubbia discriminazione e persecuzione di ebrei, zingari, omosessuali, disadattati, oppositori politici di ogni genere sia seguita una volontà di sterminio mediante camere a gas, è una cosa su cui posso sospendere il giudizio in attesa di prove certe o in attesa di un mio personale ed informato convincimento. Il risultato in questo articolo di Marco Pasqua è che Caracciolo insegna alla Sapienza e che tutte le sue tesi dei suoi blog sono ritrovate in tutti i gruppi negazionisti di estrema destra e riprese. Ecco, appunto, a proposito di deliri, ci fermiamo qua. Aspetti la sicurezza, sia quelle del relativo agli incidenti domestici, sia quelle dell'intrusione e dei furti subiti. Per quanto riguarda le grandi città abbiamo constatato un livello di soddisfazione abbastanza alto, praticamente sì, gli incidenti accadono e non debbono più accadere, però si sta andando verso un miglioramento delle condizioni degli impiantistiche delle case, perché oggi stessi gli agenti immobiliari consigliano ai costruttori, ai venditori di appartamenti di metterli a norma, di fare tutti i lavori che per mettere la casa in sicurezza prima ancora di fare una transazione. Certo, questo naturalmente, Presidente, è più facile per il nuovo, come lei diceva, è più facile dare un'indicazione al costruttore, esatto, ma per il patrimonio edilizio vecchio? Gli standard europei, anche per l'usato, i nostri venditori consigliano sempre di mettere la casa in sicurezza prima di fare la transazione di vendita o di acquisto. Certo, sicuramente, anche perché poi ovviamente tutto questo si ripercuote anche sul prezzo, no? Oggetto della trattativa. Chiaramente. Presidente, ho letto, adesso daremo anche qualche percentuale che è stata riscontrata rispetto a questo sondaggio che avete condotto su queste 2000 famiglie, ma ho letto per esempio che un elemento interessante è stato l'alto tasso di resistenza da parte degli intervistati ad essere interpellati proprio su un punto specifico. Ha mai subito un furto in casa? Si fa molto fatica ad ammetterlo, è vero? Si fa fatica ad ammetterlo e se lei avrà visto la nostra indagine si fatica anche a dire che si ha la cassaforte o dove si ha la cassaforte. Questa è una certa riservatezza che ci sta tutta praticamente, perché chi ha subito un furto non lo vuole reclamizzare, non vuole apparire. Molti intervistati ci hanno richiamato per confermare se eravamo veramente... Se era del tutto anonima, insomma, la richiesta. Quindi si fa più fatica ad ammettere se si ha una cassaforte in casa piuttosto se si ha un impianto elettrico non a norma. Esatto, sì. Beh, questo è molto curioso. Allora, i rischi di incidenti. Quasi la metà delle famiglie che avete sentito si dichiara preoccupata di fughe di gas in casa, seguita da circa un 20% timorosa da eventuali incidenti. In ogni caso, qual è poi l'orientamento delle famiglie sul miglioramento delle condizioni della propria casa? Questo è chiaro, Presidente, che è abbastanza facile che avvenga in città grandi come Torino, Milano, Genova, quelle che avete sentito per l'appunto, ma abbiamo più volte rilevato come invece in una parte del nostro paese per seguire gli standard di sicurezza della propria abitazione è, come dire, un orientamento verso il quale si ha più resistenza, e certo oggi le condizioni economiche difficili di molte famiglie non conducono non verso questa strada. Gli adeguamenti degli impianti, però mettere un salvavita, noi il messaggio che volevamo far arrivare è che mettere un salvavita in un impianto anche vecchio non è una spesa eccessiva. Certo, la messa a terra, la messa in sicurezza di tutto l'impianto elettrico sarebbe auspicabile, però in mancanza di quello si può fare qualche piccolo accorgimento e comunque riuscire a salvare una vita, per cui con una piccola spesa si possono fare degli interventi per migliorare la sicurezza nelle abitazioni. Nella vostra ricerca avete dato anche qualche suggerimento in questo senso, per esempio lo spegnimento dello strumento? Noi praticamente là lo diamo ai nostri agenti, praticamente certo. Agli agenti immobiliari che sono accreditati con il nostro marchio, che praticamente fanno azione sul territorio e cercano di convincere chi vende o chi compra a mettere quanto più possibile in sicurezza l'appartamento. Quindi l'indagine alla fine è rivolta ovviamente alle vostre professionalità, quelle che poi ovviamente si confrontano con il territorio. Esatto. Per quanto riguarda, Presidente, le polizze invece assicurative, perché anche questo ovviamente conducono sulla strada della sicurezza e della protezione del proprio ambiente domestico e della propria famiglia, il 25% degli intervistati ha dichiarato di averne stipulata una, per esempio contro gli infortuni domestici. L'ha reputata una percentuale alta o bassa o come? Ma dato il momento in cui circolano pochi soldi, diciamo che è una buona percentuale, perché ci sono anche delle polizze sociali che danno danno un aiuto per chi è in difficoltà economica, un aiuto all'INPS stesso, riconosce una piccola polizza per i piccoli incidenti familiari. Insomma, cioè, si sta muovendo qualcosa. Certo, se in un periodo di recessione come questo qualche difficoltà in più c'è. E infatti lo abbiamo capito anche alla luce di quanto per esempio ha varato l'ABI ieri, l'Associazione delle Banche Italiane, la moratoria sui mutui per le famiglie che partirà da gennaio. Presidente, le prossime indagini di Tecnoborsa quali saranno? Se ci può dare qualche anticipazione, se avete qualche lavoro interessante in prospettiva. Ma noi stiamo lavorando sul mercato in generale, quindi il nostro obiettivo è quello di innalzare sempre di più il livello delle consulenze, delle intermediazioni, e probabilmente faremo un'indagine anche in quella direzione, insomma, quindi cercheremo di far convincere gli italiani che comprano o vendono una casa che il prezzo che hanno ricavato, che stanno ricavando praticamente, è quello giusto. Il mercato come lo ritiene in questo momento, Presidente, per concludere la nostra chiacchierata? Il livello delle valutazioni, delle quotazioni? Cioè, è stato in flessione, perché la difficoltà dei mutui anche fino a qualche anno fa, lei sa che si dava un mutuo anche oltre il valore di reale, certo, dell'appartamento. Ultimamente invece non si prendeva neanche, non si riuscivano a prendere più i mutui, quindi adesso è uscita questa nuova disposizione di legge che aiuta le famiglie meno ambienti a pagare. Insomma, il mercato si sta riprendendo, perché tutto sommato gli italiani sono legati al mattone, quindi diciamo che il mercato è in leggera ripresa. C'è tutto l'interesse a mantenere questo mercato vivace. Va bene. Presidente, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie anche. Era voi, presidente di Tecnoborsa Raimondo Soria. Alessandro. Eccoci qua. Allora, per chi se lo aspetta, la moratoria sui mutui noi la facciamo domani a Salvadanaio alle 12, quindi lo preannuncio già da oggi perché vogliamo capirci qualcosa in più. Oggi torniamo su un caso, come dire, di risparmio tradito dello scorso anno, le polizze emesse dalle banche islandesi. Te le ricordi? Non solo quelle di Lehman Brothers, ma c'erano anche queste. Abbiamo scoperto che tante famiglie italiane, no, polizze agganciate alle obbligazioni islandesi. Tante famiglie italiane ce ne hanno, qualche banca sta risarcendo integralmente anche questo investimento, e quindi ci faremo un punto della situazione su questo. Bene, noi parliamo di libertà di stampa. Ieri si è pronunciato sull'Italia il Parlamento europeo, tra così cartelli, sciarpe turchesi, gesti dell'ombrello, urla e basta, insomma, ce n'è abbastanza. Vi chiediamo che ne pensate. Non ridere, Debora, è successo. No, stavo pensando, piove, d'altronde il gesto dell'ombrello ci sta tutto. Ah, vabbè. Allora, ne parliamo e vi chiediamo, ma il Parlamento europeo secondo voi è giusto che deliberi, si occupi della libertà di stampa in Italia? Questo è il sondaggio, radio24.it per votare. Se invece volete intervenire c'è la nostra Rosa che risponde all'800 24 0024. Alle 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, le notizie in primo piano. 63 indagati, reati ipotizzati, truffa, falso, turbativa d'asta, concussione, abuso d'ufficio, associazione per delinquere. È l'inchiesta che ruota attorno alle assunzioni e gli appalti all'Agenzia per l'Ambiente della Regione Campania e che vede coinvolti anche il presidente del Consiglio regionale Sandra Lonardo e il marito Clemente Mastella. Proprio Mastella terrà oggi alle 12 una conferenza stampa. L'Associazione Bancaria Italiana va in soccorso delle famiglie, a sostegno di quelle in difficoltà mette sul tavolo a partire da gennaio una moratoria di 12 mesi dei pagamenti sui mutui. Il provvedimento dovrebbe interessare circa 110.000 famiglie, avrà un valore complessivo di circa 8 miliardi. Minacce specifiche attendibili a Silvio Berlusconi non ce ne sono, ma su internet proliferano gruppi come Uccidiamo Berlusconi e il ministro Alfano ha sollevato il tema della sicurezza del Premier. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo con l'ipotesi del reato minacce gravi. Infine per il calcio, in Champions League, impresa del Milan che vince 3-2 al Santiago Bernabéu contro il Real grazie a Pirlo e a una doppietta di Pato. Vince anche la Juventus 1-0 sul Maccabi Haifa con gol di Chiellini. E allora alle 8:35 minuti siamo tutti pronti per il sondaggio di oggi. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Ieri all'Europarlamento si è parlato di libertà di stampa in Italia. Vi stiamo chiedendo, è giusto che se ne occupi il Parlamento europeo? Devo dire che al momento circa il 55% di voi che vota su radio24.it dice di sì. Si è parlato di questo, c'erano due mozioni, ma una era quella secondo me più interessante, che era stata proposta dal, diciamo, dagli esponenti dei partiti di centrosinistra, a dire che insomma in Italia non c'è libertà di stampa per la pressione, le intimidazioni anche del governo, soprattutto del governo di Berlusconi, è passata, non è passata per pochi voti. Voglio salutare Gianni Vattimo, buongiorno. Buongiorno. Europarlamentare, dell'Italia dei Valori, filosofo, pensatore, insomma, lo conosciamo. Oggi le chiedo subito, Vattimo, sul Foglio c'è scritto, sostiene Pino Arlacchi che un potere occulto legato al berlusconismo ha condizionato il voto di tre liberali irlandesi e dunque la posizione non è passata. Oppure sostiene David Sassoli, due comunisti portoghesi hanno salvato il Cavaliere. Che è stato un complotto oppure forse non era una mozione da presentare, Vattimo? No, non credo ci sia. Queste due domande non sono alternative, cioè io non credo che ci sia stato un complotto. Cioè, è vero quello che ha detto Arlacchi, salvo i poteri oscuri, perché i poteri oscuri sono sempre difficili da chiarire, quindi, però è vero che i deputati irlandesi che hanno determinato i tre voti mancanti per la nostra mozione dell'ALDE, cioè del gruppo dei liberali democratici europei di cui fa parte Italia dei Valori, hanno dichiarato pubblicamente davanti ad Arlacchi, e poi l'abbiamo sentito anche noi, che hanno ricevuto delle pressioni dal loro governo. Adesso che sia direttamente la longa manus di Berlusconi non saprei. Certo, diciamo che per noi il fallimento di questa mozione, che è stato un fallimento molto relativo, perché le mozioni degli altri sono state battute con molto, molto più grande margine, per esempio la mozione presentata dai popolari, che io inviterei gli italiani a leggere per rendersi conto della sfacciataggine a cui possono arrivare i popolari guidati dai popolari italiani, ebbene l'altra mozione è stata battuta con molto più grande margine, quindi noi siamo arrivati in un Parlamento orientato basicamente al centrodestra, perché la presidenza è stata eletta da centrodestra eccetera eccetera. La maggioranza di centrodestra nel Parlamento, siamo arrivati con soli tre voti di scarto e solo per questa ragione stravagante, ma diciamo attestata, cioè questa pressione, c'è stata una pressione del governo irlandese, che non so che interesse abbia ad aiutare i popolari, beh intanto è un governo di centrodestra anche lui, quindi si può capire. Però c'è stata questa pressione che ha rovesciato le cose. Senta, ma le chiedo, ma abbiamo fatto una buona figura, Presidente? Perché poi, adesso voglio salutare anche, ci sono altri due ospiti che ci ascoltano, Mario Mauro, buongiorno, europarlamentare, buongiorno. Presidente degli eurodeputati del PDL, voglio salutare anche Francesco Speroni, buongiorno. Della Lega, e io l'ho citato oggi Speroni, la vediamo su tutti i giornali, lei ha fatto il gesto dell'ombrello, che non siamo in TV ma tanto tutti lo conoscono, quello quando non è passata la mozione, ma tra poco ci arriviamo. Vattimo, abbiamo fatto una buona figura, perché gesti dell'ombrello, cartelli, sciarpe turchesi, si è visto un po' di tutto, no? Ma io purtroppo non ho potuto fare il gesto dell'ombrello, nel senso che forse avessimo vinto, ma l'avrebbe fatto anche lei? No, non so, dipende dal momento, però quindi scuso Speroni, diciamo. No, non abbiamo fatto una buona figura, nel senso che c'è stato un grosso dibattito in Europa che molti volevano evitare sulla questione della libertà di stampa, che formalmente ovviamente non manca in Italia, ma la libertà sostanziale, capacità dell'opinione pubblica di essere informata eccetera eccetera, vista la situazione di conflitto di interessi in cui vive e nuota del resto il nostro Presidente del Consiglio, questa questione è diventata un tema europeo, ma si è visto anche dai voti. Il fatto che la nostra mozione alla fine abbia avuto solo tre voti diciamo gli siano mancati tre voti, dice, siete andati lì. Mario Mauro, era allora una mossa anti-berlusconiana, punto? Vogliamo dire così, secondo lei? Una manovra anti-berlusconiana che è fallita, ed è stato talmente vero questo che la ragione per cui è fallita si trova in aula e nel dibattito d'aula che ha immediatamente preceduto i voti. Quando infatti abbiamo chiesto come gruppo popolare di inserire in una risoluzione che a parole tutti volevano essere una risoluzione sulla libertà di informazione in Europa, il caso ungherese e il caso portoghese, che riguardava azioni contro la stampa mosse da partiti di sinistra e da esponenti della sinistra europea, ci si è ostinatamente rifiutati di farlo, ed è quello che ha alienato quelle simpatie ulteriori, credo, di 10, 11, 12 deputati, che hanno determinato il risultato vero. Se c'è un responsabile occulto per i voti dell'ultimo momento, quel responsabile occulto si chiama Provvidenza, che ha parlato alla coscienza dei deputati e ha fatto capire che altro non c'era dietro quelle risoluzioni che un pretesto, che era colpire la legittimità democratica del governo italiano. La Provvidenza. Ma la motivo con un'osservazione di merito, sì. Guardi, lei dice Provvidenza. Nella risoluzione che era proposta, mi lasci dire, c'era un particolare che forse è bene che gli italiani conoscono, la richiesta da parte dei proponenti della risoluzione di fare la famosa direttiva europea sulla concentrazione dei media, la libertà di informazione, sì, eccetera. Bene, il gruppo Murdoch vale 33 miliardi di dollari, il gruppo Bertelsmann vale 17 miliardi e mezzo di dollari, il gruppo Mediaset vale 5 miliardi di dollari. Bene, se ci fosse una direttiva in questo settore, bisognerebbe dare il via libera per legge alla possibilità di Mediaset di espandersi nel mercato europeo. Se è questo che voleva Vattimo, parliamo. Allora, su questo, Vattimo, sulla Provvidenza forse l'hanno sentita un po' sussultare, no? No, sulla Provvidenza io dicevo che c'era una vecchia battuta che circolava in Italia con Bondi che parla con Berlusconi di una questione, di una sciagura, e dice oddio, e Berlusconi gli risponde no, in privato chiamo mi Silvio, perché questo è il concetto, cioè anche la Provvidenza è stata mobilitata attraverso Dublino, che pure insomma lei dice la longa manus di Berlusconi, ma che ha fatto Berlusconi? No. Dalla Russia dov'è con Putin, ha alzato il telefono ha chiamato Dublino dicendo diciamo votate contro. La longa manus di Berlusconi agisce molto di più in Europa attraverso i popolari italiani, cioè il fatto che per esempio i popolari fin dall'inizio si siano opposti a dibattere su questo problema. Vabbè, ma sono, voglio dire, sono espressione anche del, per esempio Mauro del PDL, un uomo molto vicino a Berlusconi, pare Mauro che il Foglio dice che Berlusconi l'ha anche chiamata per complimentarsi, poi no, è così immagino, è vero che l'ha chiamata? Che tra leader di partito e parlamentari che hanno fatto una battaglia sia normale comunicarsi i risultati e farlo. Era soddisfatto Berlusconi. È stato positivo. Era soddisfatto ieri Berlusconi, insomma, quando sì, l'ha chiamato. Guardi, mi preme ancora comunque sottolineare questo aspetto. Questa volta non noi tanto, voglio dire noi italiani del Popolo della Libertà, abbiamo vissuto l'operazione come una manovra diciamo strumentale. Ma questa volta realmente il Partito Popolare Europeo. Le dico questo perché nel 2004, 5 anni fa, quando c'era un governo Berlusconi, è stata votata una risoluzione dal titolo Libertà di informazione in Italia, di 88 capoversi, e quella volta abbiamo perso. È chiaro che riproporla 5 anni dopo, appena rientra Berlusconi al governo, ha fatto presagire tutti quanti che in realtà il problema per la stampa in Italia c'è solo se c'è Berlusconi al governo, allora, altrimenti non esisto, e questo è un po' troppo. Io voglio andare, allora Francesco Speroni, l'ho tenuta un po' lì, ma insomma ha ascoltato il dibattito, voglio tornare, ci chiarisca, Vattimo ha detto la giustifica, insomma questo gesto dell'ombrello, forse l'avrebbe fatto anche lui, avesse vinto con la mozione, però tutti la vediamo oggi sulle prime pagine protese con questo braccio proprio a dire toh, avete perso. Hanno perso soprattutto il modo in cui hanno perso, cioè non hanno accettato nessun compromesso. Io ho partecipato anche alla trattativa per cercare di arrivare a una soluzione comune. Sarebbe bastato per noi della Lega, e a proposito continua a parlare di PPE, non dimentichiamo che alcuni del PPE e proprio gli italiani dell'UDC che stanno nel PPE non hanno votato come gli altri, quindi anche qui bisogna fare delle distinzioni. Però per noi bastava dire, vabbè, c'è una certa preoccupazione in Italia sulla libertà di informazione, d'altro canto c'è stata una manifestazione, qualcuno è preoccupato, ha torto ragione, ma è così. Manca una legge sul conflitto di interessi, e anche questo è vero, punto e basta. Invece accusare addirittura l'Italia di essere un paese senza libertà di informazione, eccetera, diciamo da noi giornalisti al massimo ricevono una citazione in giudizio, cosa che è normale perché spesso chiunque, infatti si citava il caso ungherese in Parlamento, anche lì c'è un ministro che ha citato in giudizio un giornalista, sì. Lì è la magistratura che deve giudicare. Ma cosa c'era in quel gesto dell'ombrello lei che voleva fare? C'era la soddisfazione che dopo che hanno insistito in conferenza dei presidenti, hanno sulle questioni procedurali eccetera, hanno sempre vinto per 10, 15, 8 voti, quando a un certo punto la tensione si è scaricata, perché sia pure per soli 3 voti abbiamo vinto noi, ho avuto un gesto di esultanza, diciamo anche a chi mi critica, tutto sommato la libertà di informazione è cugina della libertà di espressione. Io mi sono espresso in quel modo. Molto leghista è come modo, no? Diciamo, qua si è usato solo un dito, io ho usato tutto il braccio, ma mi sembra di essere nel solco leghista. Va bene, andiamo al traffico, poi rientro, voglio rientrare anche perché c'è quest'altra notizia di un paio di giorni fa. Reporter Sans Frontières ci ha messo, Reporter Senza Frontieri, ci ha messo nella classifica annuale al 49esimo posto di libertà di stampa nel mondo. Meglio di noi fanno in Mali, un paese che io ho visitato, bellissimo, ci sarà anche libertà di stampa. Il Ghana, la Namibia. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. 8:48 minuti, la domanda è questa: libertà di stampa, è giusto che se ne occupi il Parlamento europeo? Devo dire su radio24.it o il sole24ore.com, se volete votare al momento vi dividete sul 50%. Come detto, Reportage Sans Frontières ci mette al 49esimo posto come libertà di stampa, siamo quasi al tracollo, peggio di noi in Europa forse fanno Bulgaria e una mi sfugge, me la leggevo ieri. Saluto Fausto Biloslavo, collega, buongiorno Fausto. Buongiorno. Giornalista che gira per il mondo. Ieri hai scritto un duro pezzo, è inutile negarlo, la posizione. A noi ci piacciono le idee belle contrapposte senza stare troppi fronzoli. Un pezzo duro su questa classifica, tu giornalista che giri in mezzo mondo. Perché duro? Ma duro è basato sui fatti innanzitutto. Duro nel senso che non capisco perché gli Stati Uniti dal 40esimo posto sono balzati in avanti al 20esimo posto solo perché c'è Obama. Da un anno c'è Barack Obama, no? C'è quello che non parla con la Fox, che dice esatto. sono un partito politico. Sì, non parla, non gli concede interviste neanche ad altri funzionari governativi, insomma, come dire, va giù un po' duro. E tra l'altro la stessa Reporter Sans Frontières ha criticato il presidente Obama proprio quest'anno perché prima ha promesso e poi ha mantenuto il segreto sulle fotografie degli abusi dei prigionieri iracheni in mano agli americani, insomma. Quindi questo è il primo punto. Il secondo è perché io mi sono guardato il questionario che riguarda ovviamente anche l'Italia e insomma non penso che in Italia i giornalisti vengano torturati, incarcerati se alzano il dito o addirittura che le forze armate entrano nei giornali e li chiudono a colpi di Kalashnikov, insomma, ecco. Cioè il 95% di quelle domande per cui si giudica appunto un paese praticamente non riguardano il nostro paese. E c'è un 5% in cui anche si chiede sicuramente quante querele vengono fatte contro i mezzi di informazione, però si chiede anche quanti giornali d'opposizione al governo ci sono e continuano a venire pubblicati, quanti media ci sono, insomma, quindi ecco, mi pare. Insomma, domande che non ti hanno chiarito bene le modalità, anzi, di come viene compilata questa classifica. Ecco, come viene compilata? Io ho chiesto anche magari il nome di chi compila questi questionari, mi hanno detto che praticamente è un po' segreto, nel senso che sembra che siamo nello Zimbabwe, no? Se dopo viene fuori il nome che magari c'è travaglio e non so che facciamo, gli tagliamo la testa, non so. Ecco, mi sembra un po' pretestuoso. No, ecco. Per carità, questo no. Gianni Vattimo, lei che ne pensa di questa classifica? Ma io, a dire la verità, naturalmente la trovo un dato di cui tener conto insieme ad altri, per esempio anche la House of Freedom, che è un'altra organizzazione internazionale. Lì andiamo meglio. Monitora queste cose. Dice che non stiamo tanto bene come libertà di stampa, però da noi io vorrei solo ricordare che è vero che i giornalisti non vengono incarcerati, ma l'editto bulgaro tutti se lo ricordano, e Berlusconi che agli industriali italiani dice di non far pubblicità sui giornali anti-berlusconiani è una cosa grave, certo che è grave, naturalmente la libertà di far pubblicità c'è, ma le imprese hanno da fare col governo, con questo Presidente del Consiglio, eccetera. Quindi, francamente, sebbene si possa discutere su queste classifiche, anch'io non credo di essere peggio che nel Mali, ma però non conosco il Mali, quindi non so bene. anche Ghana e Namibia sono... Appunto, non so, devo dire, non ci sono mai stato. Ma fondamentalmente ci sono un sacco di altri sintomi e di nuovo ripeto, il fatto che al Parlamento europeo, che ha una buona maggioranza, buona per così dire, ha una larga maggioranza di centrodestra, siamo riusciti a realizzare questa... per questa mozione perdere soltanto per 3 voti per giunta in quel modo che è stato detto e che nessuno ha ancora smentito, direi che il problema esiste per tutti, cioè insomma lei dice è stata una sconfitta con dignità, ecco, 3 voti visto che i numeri non ci sono su questo. Però Mauro, io voglio insistere perché un attimo lei insomma insiste sulla vicenda Berlusconi e allora Mario Mauro, è proprio questo si è trattato secondo lei, di uno scontro europeo sul fatto, sulla figura di Silvio Berlusconi? Guardi, partiamo dal Mali. Lei provi a scrivere in Mali qualcosa di islamicamente poco corretto, tipo sui diritti delle donne, e poi ci rivediamo. Seconda osservazione, avete accennato alla classifica di Reporters Sans Frontiere di Freedom House. Nel caso della prima è già stato detto tutto, vale a dire, quando uno fa causa a Repubblica o l'Unità chiedendo risarcimento civile perché è stato scritto su quei giornali che è impotente e una minaccia per la libertà, invece quando un altro dice al gruppo Murdoch non mi interessa nulla relativamente al fatto che non sei in politica, la politica la condizioni e io ti tratto come un avversario politico e da oggi in poi la tua televisione non le parlo più, mi rivolgo più. Sì, la frase, ecco, la frase questo, non... Attenzione, io voglio sottolineare un fatto, che queste classifiche sono già politicamente orientate. Ne volete un'ulteriore prova? Freedom House, la sede europea di Freedom House è in Bulgaria e ne è responsabile il signor Skolnikov, che è un giornalista che ha al suo attivo una serie di ricerche che tendono a dimostrare che il sistema sanitario russo è fortemente peggiorato dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Io non so se dietro ogni situazione bisogna tendere a vedere i comunisti, però se dietro il voto libero espresso dai deputati europei uno ci vede a tutti i costi la longa manus di Berlusconi, non vedo perché Berlusconi non possa che chiama un modello per cui i comunisti mangiano i bambini. Roberto da Roma, ce la fa a dirci in 6 secondi qual è il suo problema? Roberto ci ha chiamato. Pronto, lei è l'unico che interviene oggi tra i tanti, ci dica. Guardi, no, io sposto solo un momento l'argomento del... Sì. No, accendo la radio. Dica. Giusto l'ombrello. Cioè io mi vergogno perché ogni volta che vado all'estero, ecco, la figura degli italiani è quella. Vergogna per la figura degli italiani. Speroni, 6 secondi anche lei, replichi il gesto dell'ombrello. Si vergogna Roberto da Roma. Che facciamo noi italiani? Fa parte della libertà di espressione. Poi non è che uno debba per forza riconoscersi in un parlamentare. Il parlamentare rappresenta una parte politica. Sì. A me dispiacerebbe se chi mi ha votato mi criticasse, finora ho avuto solo i complimenti. Dice Roberto da Roma, lei dice non mi avrà votato sicuramente. Va bene, vi ringrazio, mi fermo qui. Gianni Vattimo, Mario Mauro, Francesco Speroni e Fausto Biloslavo del giornale. Grazie a tutti per essere stati con noi. Radio24.it per votare il sondaggio. Saluto Alessandro Marco Tulli in redazione con Laura Marchesi e Peter Bescapè in regia. E ora Oscar Giannino.